Rassegna Stampa Europa. Ancora buongiorno e ancora buon anno da Giulia Crivelli. Cambiamo un po' il nostro orizzonte, ci dedichiamo ai giornali europei e soprattutto ai temi europei. E partiamo dalle Soir, un quotidiano belga che ricorda come il 2 e 3 aprile a Bruxelles, la capitale del Belgio, si terrà la prima conferenza europea sull'internet del futuro, cioè First European Conference on the Future Internet, quindi proprio come sarà, non il futuro di internet, ma come sarà l'internet del futuro, come se appunto qualcuno, e forse è così, già lo sa. La prima conferenza ha lo scopo di riunire i principali portatori di interesse impegnati a dare forma alle reti e ai servizi del futuro per discutere di come l'Europa possa raggiungere una leadership mondiale entro il 2020 attraverso tecnologie innovative. I partecipanti, spiega Le Soir, avranno l'opportunità di incontrare e stabilire contatti con i rappresentanti di importanti organizzazioni europee nel campo delle telecomunicazioni e acquisire una visione d'insieme dei programmi volti a accelerare lo sviluppo e l'adozione delle tecnologie dell'internet del futuro in Europa. Passiamo alla Süddeutsche Zeitung, che è invece un quotidiano tedesco. Sapete, in Germania ha preso da poco il via questo nuovo governo, che è davvero un governo con la famosa grosse coalizione, cioè che unisce partiti diversi, e però, spiega la Süddeutsche Zeitung, ci sono già le prime liti nel governo tedesco di grande coalizione a causa soprattutto degli immigrati rumeni e bulgari, nei confronti dei quali sono cadute le restrizioni, il primo gennaio sono cadute le restrizioni imposte negli anni scorsi da 8 paesi europei, tra cui c'era appunto la Germania. Sapete, questo è un tema di cui abbiamo parlato anche settimana scorsa, perché la stessa cosa è successa nel Regno Unito, e anche nel Regno Unito il premier David Cameron sta avendo qualche problema su questa questione. Alla CSU, che è il partito alleato di governo della CDU di Angela Merkel, che chiede misure ulteriori per impedire un turismo dei benefici, così lo definisce, da parte dei cittadini di Romania e Bulgaria, che ora potranno trasferirsi in tutti i 28 paesi dell'Unione Europea senza un permesso di lavoro. E ha risposto il ministro degli esteri Frank-Walter Steinmeier, che invece è della SPD, al terzo partito di governo, che ha ricordato che la libera circolazione dei lavoratori è parte essenziale dell'integrazione europea. La Germania, ha ricordato il ministro in questa intervista alla Süddeutsche, ha tratto immensi benefici da questo e certamente molto più che in altri paesi. Secondo Steinmeier, l'arrivo dei giovani in cerca di lavoro aiuta noi, aiuta i paesi dai quali provengono. Le parole del capo della diplomazia di Berlino sono arrivate in risposta a questo comunicato diffuso nei giorni scorsi dalla CSU, che viene definita la sorella bavarese della CDU di Angela Merkel, nel quale si invocavano misure supplementari per impedire migrazioni provocate dalla povertà nell'Unione Europea. Per la Germania, aveva ammonito la CDU, dobbiamo sviluppare una serie di misure per proteggere il nostro sistema di welfare contro gli abusi. L'Europa non dovrebbe ostacolarci se vogliamo avere regole nazionali delle migrazioni provocate dalla povertà. È un comportamento disastroso da parte di Bruxelles chiudere gli occhi su questo problema e limitare le possibilità di misure nazionali. Le polemiche, appunto, ricorda la Süddeutsche, le polemiche della Germania riecheggiano quelle della Gran Bretagna, dove il premier David Cameron vorrebbe imporre una serie di limitazioni ai benefici sociali che per i rumeni e i bulgari, che tutti si attendono, arriveranno nei prossimi mesi, caduta appunto questa restrizione il 1 maggio. E vi ricordo anche un altro tema di cui abbiamo parlato nella settimana scorsa e forse anche nelle settimane precedenti, che è quello della sicurezza europea e di un eventuale esercito europeo che al momento non esiste. Scrive Euronews, una maggiore cooperazione sì, ma per una vera e propria difesa comune europea i tempi non sono ancora maturi. Il tradizionale Consiglio europeo di fine anno, che si è chiuso appunto alla fine del 2013, aveva suggellato, come sappiamo tutti, una sorta di intesa sull'unione bancaria. Sono stati fatti alcuni progressi sulla politica di sicurezza e di difesa, ma tra i 28 restano divergenze importanti su questo tema, cui non si dedicava un dibattito specifico da 8 anni. Eppure, scrive Euronews, è fondamentale per l'unione, come dimostrano le conclusioni del Consiglio europeo. Con circa 1,5 milioni di posti di lavoro e un volume d'affari di 96 miliardi di euro, questo settore, quello della difesa e della sicurezza, è molto importante per l'Unione europea, ha detto il Presidente della Commissione José Manuel Barroso, ma non solo per l'economia europea, come ben spiegato nelle conclusioni del Consiglio europeo dedicate all'argomento. D'accordo sul voler procedere verso una collaborazione più stretta e una maggior coesione, i leader europei però hanno ancora visioni diverse, come il Premier David Cameron, che ha decisamente frenato su ipotetici eserciti europei, con contraddizioni dell'interpretazione dei vari Stati membri sul come contribuire alla difesa europea. Veniamo invece a un quotidiano di Mosca che si scaglia un pochino sulle questioni dell'antidumping, e infatti Mosca ha accusato Bruxelles di violare alcune disposizioni dell'accordo antidumping e addirittura ha presentato un ricorso alla WTO, la World Trade Organization, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, contestando la tassa imposta dall'Unione Europea su una serie di importazioni russe. Sapete che questo tema dei dazi, esiste appunto la World Trade Organization, che dovrebbe liberalizzare il commercio in tutti i modi, poi in realtà se uno va a studiare esistono ancora tantissimi tipi di dazi all'importazione tra paesi, ed è per esempio uno dei grandi temi dei negoziati tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, che ancora impongono molti più dazi sulle importazioni dall'Unione Europea di quanti noi non facciamo sulle merci che arrivano dagli Stati Uniti. Ad annunciare quindi questa protesta verso Bruxelles è stato il ministro dell'economia russo, spiegando che nel mirino del Cremlino c'è il correttivo energetico, ovvero l'imposta fissata dall'Unione sull'importo di alcuni prodotti russi legati ai bassi costi di energia nella federazione. Il ricorso è stato trasmesso alla rappresentanza dell'Unione Europea presso le Nazioni Unite, si legge in una nota del dicastero riportata a questo quotidiano moscovita, e si tratta della prima procedura avviata dalla Russia dalla sua adesione alla WTO nell'agosto 2012, e giunge nel bel mezzo delle tensioni sorte tra le due aree a proposito della vicenda dell'Ucraina, di cui abbiamo parlato tanto. Ma veniamo alla Lettonia. Sapete, la Lettonia dal primo di quest'anno è entrata a far parte dell'Eurozona, quindi il primo di gennaio nel 2014 la Lettonia è entrata nell'Eurozona ed è diventata il 18° paese che aderisce alla moneta unica europea. Questa è una notizia che naturalmente è stata data, ma continuano le preoccupazioni perché molti abitanti di Riga, la capitale della Lettonia, hanno dichiarato ai giornali, c'è sicuramente una preoccupazione per l'aumento dei prezzi, perché questo è qualcosa l'introduzione dell'euro ha insegnato in tanti paesi, è che purtroppo molto spesso subito dopo l'introduzione i prezzi aumentano. La Lettonia, ricorda il quotidiano, è un ex paese sovietico che ha aderito all'Unione Europea il 1 maggio del 2004 dopo il referendum nel quale il 66,9% degli elettori aveva approvato l'adesione. Poi, come sempre succede, l'adesione invece all'euro viene dopo. Ma vediamo un altro argomento. Visto che parliamo di allargamento dell'Unione Europea, c'è un altro paese che potrebbe entrare, è la Serbia, e ci spiega Politica, un quotidiano serbo, che i negoziati appunto tra la Serbia e l'Unione Europea cominceranno il 21 di gennaio. Il 17 dicembre i ministri degli esteri europei hanno approvato l'apertura dei negoziati in vista di un'adesione della Serbia all'Unione. Il 21 gennaio si terrà una conferenza intergovernativa. Alla fine del processo di negoziato la Serbia dovrà firmare un accordo giuridicamente vincolante con il Kosovo sulla normalizzazione totale delle relazioni, spiega Politica, precisando che la Spagna si è opposta a questa condizione per poi invece allinearsi alla posizione tedesca e britannica. Il quotidiano sottolinea che i negoziati potranno essere congelati se i progressi di Belgrado in merito ai capitoli 23, cioè apparato giudiziario e diritti fondamentali, e 24, cioè giustizia, sicurezza e libertà, accuseranno grossi ritardi. E veniamo a un altro tema. Io mi ricordo che ho iniziato a occuparmene nel 2000 di questo tema, che è il rapporto tra Microsoft e l'antitrust. Sapete che in passato anche Mario Monti, che poi è stato premier italiano, è stato il capo dell'antitrust europea, è stato sicuramente uno dei fustigatori di Microsoft in quanto definito monopolista. E scrive il quotidiano francese Le Figaro, portando poi notizie anche riportate dall'agenzia France Presse, che nonostante il suo impegno contro i monopoli, la Commissione è legata al gigante americano Microsoft a contratti poco trasparenti e rifiuta di passare all'open source come chiesto da molte associazioni. E vi leggo la prima parte di questa inchiesta condotta appunto sui rapporti tra la Commissione europea e Microsoft. Le rivelazioni pubblicate di recente da Mediapart sulla pirateria dei servizi di posta elettronica del Parlamento europeo avrebbero potuto offrire l'occasione per una revisione totale della sicurezza informatica delle istituzioni europee. Difficile immaginare un momento più propizio. Pressate dai deputati e dalle associazioni che da anni chiedono l'abbandono dei contratti che le legano alla Microsoft, messe di fronte alle rivelazioni di Edward Snowden sul programma di spionaggio mondiale organizzato dagli Stati Uniti, queste istituzioni hanno ormai la prova della facilità con la quale è possibile introdursi in un servizio di posta elettronica. Il prossimo anno la Commissione europea, che negozia per l'insieme delle istituzioni dell'Unione, avrà l'occasione di rinegoziare i suoi contratti con il gigante americano del software, suo principale fornitore da 20 anni. E vi segnalo anche per una volta, anche citiamo due quotidiani italiani sui temi dell'euro. Il primo è il Sole 24 Ore, proprio di oggi, perché a pagina 9 trovate un approfondimento di Vittorio Darold sulla Lituania. Euro, Lituania in coda, Polonia no. Vilnius, abbiamo parlato della Lettonia che ha appena aderito all'euro, ora tocca il prossimo appuntamento con la Lituania. Vilnius aderirà alla moneta unica nel 2015, mentre Varsavia preferisce aspettare. Le motivazioni lituane: per l'ex Repubblica Sovietica è importante prendere le distanze dalle mire russe di egemonia, e le abbiamo viste sull'Ucraina, ma l'opinione pubblica è piuttosto tiepida. Quanto alla cautela polacca, ci spiega Vittorio Darold, la crisi dell'Eurozona ha consigliato prudenza. Intanto però il paese rimane il maggiore beneficiario di fondi comunitari. E per quanto riguarda l'analisi, è di Riccardo Sorrentino ed è intitolata Allargamento europeo, un valore da riscoprire. Vi leggo le prime righe. Oggi la contestano in tanti. L'Unione Europea ha però seguito negli ultimi 20 anni una grande strategia di successo. La politica dell'allargamento, adottata dopo la caduta del vecchio mondo della cortina di ferro, che ha permesso di creare un'area stabile, di esportare la democrazia con risultati migliori di quelli americani e di ridare una prospettiva ai paesi della penisola balcanica, dove pure è stato necessario combattere una guerra, strappandola così all'influenza della Russia, che dell'Unione resta un importante avversario. Ma Carmelo Lauricella in regia, che ringrazio, mi fa segno che purtroppo anche oggi il tempo è tiranno. Vi auguro ancora un buonissimo anno, un buon sabato. Ci sentiamo domani per la rassegna stampa dei giornali italiani. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.